Check to spend them. Yeah, you can. We were like we were it's kind of like tying a tie, you know, like a Windsor or something. Like we were. And then it goes back through when I'm ready to tighten them up. We were. Now this is your breast collar. That just a little bit of a little bit, little bit of a little bit of a little bit of a little bit of la mappa che andasse non lo cavallo, ma non è un luogo, è una, è un nome, basta, non c'è un paesino in mezzo a questo deserto, sorge il palazzo della nazione. C'è già una certa dimensione. Questi saloni vuoti, ma è un viaggio, proprio, è veramente un viaggio. Thank you.

Ci vuole la mappa per andarci. Madame.